Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Focus Economia. Rientro in studio dopo qualche settimana di smart working e naturalmente si rientra con il turno doppio. Eccoci qua, dunque, alla conduzione al timone del contenitore della sera. I temi economico-finanziari della giornata, è un'altra giornata piuttosto interessante per quello che riguarda intanto i mercati finanziari. La borsa oggi ha avuto un andamento abbastanza altalenante perché stamattina l'Europa era partita così un po' incerta, poi ad un certo punto il vecchio continente ha accentuato le perdite, complici alcune statistiche che sono arrivate dalla Germania e dalla Spagna per quello che riguarda il calo del PIL che queste due economie subiranno a causa, ovviamente, guarda caso, del coronavirus, e poi c'è stato un recupero, al punto che Wall Street non solo ha recuperato, anche in questo caso dopo una partenza incerta, ma adesso è positiva non ovunque, scusate, perché in realtà è di nuovo negativa. Vedo un quadro di nuovo altalenante anche a Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,8%, Standard & Poor's meno 0,40%, quindi volatilità piuttosto accentuata anche sul mercato americano. Poco fa appunto le cose andavano un po' meglio, poco prima appunto delle 5, adesso invece c'è di nuovo un peggioramento, ma insomma è abbastanza plausibile pensare che questo andamento lo vedremo ancora a lungo, anche perché gli osservatori mondiali continuano a provare a fare delle stime su quella che sarà la ricaduta economica, che sappiamo già essere imponente da questa appunto pandemia, ma è molto difficile fare oggi un calcolo rispetto a quello che potrà succedere nei prossimi mesi. Quindi si viaggia anche in questo caso, si naviga a vista. L'unica cosa certa che sappiamo appunto è che in termini di PIL le ricadute negative saranno assolutamente molto importanti appunto in termini di dimensioni. Ne parleremo, ma con un focus naturalmente ancora una volta stasera concentrato sull'Italia. Allora, da oggi, come sapete, è possibile per le piccole e medie imprese, ma anche con quelle che hanno fatturati consistenti, appunto andare in banca e quindi chiedere un prestito per continuare a sopravvivere, avere liquidità. E c'era grande attesa per la partenza dell'operazione di questa mattina, perché si tratta dell'ennesimo adempimento a cui il sistema bancario è chiamato in questo periodo. Poi possiamo andare addosso alle banche quanto vogliamo, ma c'è da dire che lo sforzo sostenuto in questa fase ha veramente dell'eccezionale, e per cui anche questo è l'ennesimo tassello che si è aggiunto alle tante operazioni di questo periodo. Faremo un punto con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, per capire come hanno risposto le banche questa mattina, quanto è complicata l'istruttoria che le imprese devono sostenere per accedere appunto a questi finanziamenti. Si va dal minimo di 25.000 euro, ma sempre tutto rapportato anche alla mole dei ricavi appunto registrati lo scorso anno. C'è un prestito che naturalmente è garantito al 100% dallo Stato, poi le garanzie si riducono in termini percentuali a seconda della tipologia di prestito richiesta e a seconda chiaramente anche dell'entità del prestito richiesto, e faremo un punto più tardi proprio sulla partenza dunque di questa operazione. Poi parleremo di tutte quelle imprese che si sa già avranno molta difficoltà a riaprire quando il nostro sistema ritornerà ad avere una sorta di normalità. Sarà un percorso molto faticoso e lungo, ma c'è un'indagine appunto di un istituto che si chiama INAP, che ci racconta che le micro imprese, 2 su 3, sono chiuse in questo momento e avranno difficoltà a riaprire, ma ci faremo dare qualche dettaglio in più rispetto a questo ennesimo monitoraggio, che naturalmente vuole fare un punto della situazione bocce ferme alla situazione attuale, appunto sapendo bene che è tutto abbastanza in evoluzione e che queste statistiche che ad oggi sono di un certo tipo, ma che sono destinate probabilmente anche a peggiorare, purtroppo, ma lo vedremo nei prossimi mesi e speriamo di no. Faremo anche un punto sul settore che probabilmente è stato il primo ad avere un tracollo verticale che è quello del turismo. Voi ricorderete che non appena abbiamo cominciato a parlare della situazione italiana e del contagio italiano da coronavirus, a saltare per primi sono stati i viaggi, gli spostamenti, naturalmente proprio i trasferimenti per viaggio e non solo. Le gite scolastiche, lo ricorderete, tutte sospese all'inizio di marzo. E beh, il settore turismo lancia un vero e proprio allarme. Qualche settimana fa è stato lanciato questo manifesto che si chiama Ripartiamo dall'Italia. Ma il settore lamenta che non c'è ancora nessuna azione concreta dal governo alla richiesta urgente di un fondo straordinario dedicato al turismo, che non solo deve pensare a come sopravvivere in questo momento, ma deve anche cercare di capire cosa farà nei prossimi mesi, perché sappiamo che saranno tempi molto difficili per questo comparto, visto che dovremo fare le nostre vacanze distanziati. Chissà come sarà questo turismo in questa era del distanziamento sociale, e quindi ne parleremo. Parleremo poi anche di borsa. Come sempre, Milano ha un calo adesso dello 0,36%. Scendono alcuni titoli, in particolar modo, come sempre Campari per esempio meno 3, oggi stacca il dividendo con Ferrari, Terna meno 2,58. Oggi abbiamo avuto una situazione che racconteremo poi con il resoconto della seduta di borsa, molto originale sul petrolio. Un future, quello con scadenza a maggio, ha avuto un tracollo del 40% sulle quotazioni. Siamo sotto i $14 al barile, ma qua c'è anche da segnalare che, a prescindere dall'arresto, dal tracollo della domanda di petrolio a livello mondiale, come sapete si è dovuto anche registrare l'intervento dell'OPEC, la revisione dei tetti produttivi e quant'altro, ma c'è anche oggi un effetto tecnico, una spiegazione tecnica, che è quella appunto di un intervento di un ETF, o meglio un ETC, perché i fondi di natura passiva che investono sulle materie prime si chiamano appunto ETC da commodities. Naturalmente c'è uno spostamento di flussi da questo future a un altro, quello con scadenza a giugno, e questo è il motivo per cui oggi io cerco di spiegarle in maniera molto semplice, ma è molto difficile spiegare questa questione tecnica appunto che ha avuto questa ripercussione sul petrolio. Ma questa è anche una delle ragioni per cui oggi sul petrolio abbiamo visto veramente lotto volante, a dire poco. 349-238-6666 è il numero che, se volete, potete comporre per inviare i vostri commenti sui temi del giorno, possibilmente non insulti, magari qualche saluto lo raccogliamo volentieri. Adesso direi che possiamo andare alle notizie in breve della giornata. Allora, cominciamo subito con la prima domanda del giorno, che è notizia di Barisoni. Allora, io ci tenevo molto a dare questa spiegazione perché me l'aspettavo, che poi ovviamente si chiede sempre conto del conduttore che manca. Allora, noi siamo più fortunati perché magari non facciamo lavori per i quali adesso c'è grande difficoltà, quindi non siamo dovuti andare in cassa integrazione, almeno per il momento, ma come tutte le aziende che stanno sostenendo tutti gli sforzi, anche noi siamo chiamati a fare il nostro, per cui ferie arretrate via, l'azienda ci chiede naturalmente di farle, quindi a rotazione mancheremo anche noi per questa ragione, perché anche noi dobbiamo, come dire, in questo sforzo generale di mutualizzazione del disagio, anche noi siamo chiamati a fare il nostro, per cui se Sebastiano non c'è, altri conduttori non ci sono, non c'è nessuna retropensiero da fare, semplicemente facciamo il nostro anche noi, e chi c'è fa il doppio turno, come oggi tocca a me. Il petrolio, dicevamo, meno 40%, addirittura siamo arrivati ad $11 al barile. Io prima ho detto 13, ma insomma siamo ad un tracollo verticale, crolla la domanda, si scontano fattori tecnici come quelli che spiegavo prima, ma oggi questo è stato veramente un tema dirompente, che però per fortuna a quanto pare non ha avuto particolari ripercussioni appunto in borsa. C'è da dire che i titoli del settore ormai avevano perso talmente terreno, perché il greggio sia a New York che meno a Londra è in ribasso molto importante da diverse settimane. Andando alle economie internazionali, andiamo al Giappone. Lo stallo dell'economia su scala globale a fronte dell'emergenza della pandemia del coronavirus accentua la crisi dell'export appunto in Giappone, con il maggior calo su base mensile degli ultimi 4 anni. C'è stata una flessione in questo arco temporale dell'11,7%, un po' peggio è andata secondo le aspettative degli analisti, che si aspettavano almeno un calo sempre a doppia cifra del 10%. Come conseguenza, Il surplus della bilancia commerciale, pensate, è sceso del 99% rispetto al marzo di un anno fa, 5 miliardi di yen, qualcosa come 42 milioni di euro dai 517 miliardi di yen dello stesso periodo di riferimento. Con l'economia ferma a livello globale potete immaginare come si siano riorganizzando tutti i flussi commerciali, quindi tutti i rapporti import-export fra tutte le economie mondiali. Intanto la banca centrale cinese quest'oggi ha tagliato per la seconda volta quest'anno alcuni tassi di riferimento. Il long prime rate è tra i tassi preferenziali offerti dalle banche commerciali ai clienti migliori e poi è un riferimento appunto sui tassi applicati anche agli altri prestiti. La misura era ampiamente attesa e vuole stabilizzare la liquidità del sistema bancario sul fronte dei finanziamenti alle imprese, per cui dalla Cina all'Italia, ovunque nel mondo, è sui tassi che si interviene per rendere in questo momento un po' più agevoli i prestiti e garantire appunto liquidità a tutto il sistema. E potevamo farci mancare in questo momento un bello scontro fra Cina e Trump? Assolutamente no. Pechino oggi ha invitato Washington a rendersi conto che il Covid-19 è il nemico, non la Cina. Così un portavoce appunto del Ministero degli Esteri ha dovuto rispondere all'ipotesi del presidente Trump di inviare un team in Cina per indagare sull'origine della pandemia da coronavirus, ventilando misure corrispondenti in caso di responsabilità. Ma naturalmente Pechino ha rinviato subito al mittente la prospettiva. E intanto Trump oggi ha fatto anche dell'altro, ha avuto altre dichiarazioni. Questa pandemia, ha detto, dimostra la necessità di riportare le catene di fornitura negli Stati Uniti. Ha fatto il suo consueto briefing appunto alla Casa Bianca e ha ricordato che gli Stati Uniti sono stati costretti ad importare mascherine ed altro materiale medico protettivo anche dalla Cina, per cui, come sapete, appunto sta evocando anche alcune norme per le quali potrebbe, grazie alle quali potrebbe obbligare, appunto sta obbligando di fatto appunto molte aziende americane a garantire queste forniture. Intanto Trump ha anche annunciato che sono in corso negoziati e oggi si potrebbe arrivare ad un nuovo accordo per rifinanziare il fondo dei prestiti a favore delle piccole e medie aziende, un fondo come ricorderete da 350 miliardi è andato già esaurito. Come sapete, in questi giorni molti esponenti italiani sono stati molto attivi sulla stampa tedesca. Ci sono state le dichiarazioni del premier Conte alla, scusate il mio tedesco, Süddeutsche Zeitung. L'Unione Europea, ha detto Conte, ha bisogno di tutta la sua potenza di fuoco nella risposta alla crisi economica generata dal Covid-19, nello specifico attraverso l'emissione di titoli comuni, quindi torna ancora ad insistere su questo punto il premier italiano in vista dell'Eurogruppo di giovedì. D'altronde, ha detto Conte, viviamo il più grande shock dalla guerra, per cui l'Europa deve dare una risposta. Tra l'altro, reintervenendo di nuovo sul tema di un possibile ricorso da parte dell'Italia al meccanismo europeo di stabilità, e come sapete appunto Conte non è propriamente di questa idea, ha anche detto che il MES in Italia ha una cattiva fama, perché non ci dobbiamo dimenticare che ai greci, nell'ultima crisi finanziaria di qualche anno fa, quando hanno fatto ricorso a questo meccanismo, sono stati richiesti sacrifici inaccettabili perché ottenessero i crediti, e di conseguenza, secondo Conte, appunto gli italiani si ricordano della situazione greca e quindi non vogliono cadere nella stessa situazione, anche se, come sappiamo, il ricorso al meccanismo europeo di stabilità sarebbe diverso solo per le spese sanitarie, insomma cose che Barisoni vi ha spiegato più volte. In ogni caso, ha ribadito Conte, è indiscutibile che l'Italia in questa emergenza sia stata lasciata sola. Lo ha riconosciuto anche Ursula von der Leyen, la presidente appunto dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e Conte ha detto di aver anche apprezzato le parole appunto della von der Leyen. E infine la crescente sfiducia degli italiani nell'Unione Europea nasce anche dal fatto, ha chiuso Conte in questa lunga intervista, che ci sentiamo abbandonati proprio dai paesi che traggono vantaggi da questa Unione. Sull'Unione Europea che non fallirà, è intervenuto anche il commissario agli affari economico monetari dell'Europa, appunto Paolo Gentiloni, l'italiano Gentiloni, che ha detto che l'Unione Europea non fallirà appunto sulla ricerca di soluzioni per affrontare il coronavirus e soprattutto il drammatico impatto economico che ne arriva. Anche Gentiloni è stato sentito dalla stampa tedesca, Der Spiegel, dopo la mancanza di solidarietà iniziale nei confronti dell'Italia, i cittadini adesso vedono che le cose stanno cambiando e nel frattempo sono state prese decisioni impressionanti da tutti gli organismi europei, dalla Banca Centrale Europea, dalla Commissione e anche dagli Stati membri, per cui insomma Gentiloni è un po' più tranquillo. Dicevamo dell'impatto in borsa che questa mattina hanno avuto le previsioni rilasciate dalla Germania, dalla Bundesbank e dalla Spagna, appunto dalla Banca Centrale di Spagna. Allora, per la Bundesbank tedesca non ci si aspetta una veloce ripresa dalla recessione in Germania, è stato pubblicato oggi il bollettino mensile, come fa la Banca d'Italia nel nostro paese, lo fanno anche le altre banche centrali appunto delle varie economie. Restrizioni sostanziali dovranno restare in vigore fino all'arrivo di soluzioni mediche, come ad esempio il vaccino contro il Covid. Una ripresa forte e rapida appare per questa ragione, dalla prospettiva attuale, piuttosto inverosimile. Per quello che riguarda la Spagna, invece, si vede una contrazione dell'economia dal 6,8 al 12,4% quest'anno. Prima del primo approfondimento di questa sera ancora un paio di notizie. Allora, durante la settimana di Pasqua, tra lunedì 6 e domenica 12 aprile, è continuata la crescita rispetto allo stesso periodo del 2019 delle vendite della grande distribuzione organizzata, con un trend che è tornato a crescere a doppia cifra, più 11,8% a parità di negozi. È una buona notizia questa, ma d'altronde, stando tutti a casa, chiaramente abbiamo fatto quanto più spesa possibile, quantomeno per renderci gradevoli queste giornate di quarantena, di isolamento e di blocco appunto nelle nostre abitazioni. La settimana di Pasqua, che quest'anno è coincisa con la quinta settimana di quarantena nazionale, ha fatto registrare un nuovo aumento delle vendite in valore che tornano a crescere a doppia cifra, ha detto un dirigente appunto di Nielsen Connect in Italia, Romolo De Camillis. Nonostante la crescita sia stata anche influenzata dal calendario, anche le feste hanno connotato una spesa sempre più da cuochi a casa. Il food continua a crescere in modo consistente. Come sapete, è andato molto a ruba. Il lievito, se ne è tanto parlato, ha fatto tanto sorridere, ma c'era poco da ridere. Insomma, ci siamo inventati tutti pizzaioli e panificatori. Il settore dei pubblici esercizi, intanto, è una diretta conseguenza della statistica di cui sopra. Bar, ristoranti, pizzerie, catene di ristorazione, catering, discoteche, pasticcerie, stabilimenti balneari, con 30 miliardi di euro di perdite, è in uno stato di crisi nera, profonda, con il rischio serio di veder chiudere definitivamente 50.000 imprese e di perdere 300.000 posti di lavoro. È l'allarme di FIP e Confcommercio, che ha spiegato che già molti imprenditori stanno maturando l'idea di non riaprire l'attività. Noi su questo abbiamo sentito, lo ha fatto per noi il nostro Alessandro Arona, il presidente di FIP e Confcommercio, Lino Stoppani. Quell'appello contiene il grido di dolore di un settore importante, dove ci sono bar, ristoranti, pizzerie, discoteche, stabilimenti balneari, attività di catering e banqueting, che è in profonda crisi e che rischia di uscire dall'emergenza, ha cambiato e fortemente ridimensionato. 30 miliardi di euro le perdite ad oggi stimate, 50.000 le imprese che rischiano di non riaprire, 300.000 i posti di lavoro a rischio. I provvedimenti governativi ad oggi sono ritenuti insufficienti, inadeguati. Da una parte la burocrazia limita l'accesso al credito e alla liquidità, dall'altro si è fatto, a nostro avviso evidentemente, poco o niente in tema di fiscalità, di gestione dei contratti d'affitto, in termini di indennizzo per chi è stato costretto a chiudere o ha visto crolli di fatturato spaventosi. Noi chiediamo interventi più forti, più coraggiosi, più utili per un settore che siamo di parte evidentemente, ma consideriamo vitale per la nostra economia, non solo per i numeri che esprime, ma anche per il suo grande valore sociale e per l'importanza che ha per la promozione e la valorizzazione della filiera agroalimentare, ma anche come fattore straordinario di attrazione turistica per il nostro paese. Sui temi delle ripartenze è chiaro che la sicurezza è un problema di tutti, ma evidentemente va gestita anche con quell'equilibrio e quel senso della misura. Sentiamo parlare di distanziamenti impraticabili, sanificazioni impossibili, di responsabilità civili e penali universali. Questo significa distruggere definitivamente un comparto, insomma. Il distanziamento sociale ovviamente imporrà spazi aggiuntivi rispetto a quelli normalmente utilizzati, da qui la richiesta logica, insomma, di poter usufruire di spazi esterni, marciapiedi, per poter fare un'attività godendo di spazi senza oneri aggiuntivi. Mentre invece sull'attività integrativa a noi oggi è concesso solo il food delivery, mentre invece l'attività di asporto concessa per esempio al dettaglio alimentare o alla grande distribuzione a noi è vietato ed è una scelta incomprensibile. Insomma, come avete sentito, negozi che resistono solamente grazie al food delivery, cioè al fatto di poter fruire di persone che consegnano a domicilio, altrimenti si sarebbe abbassata la serranda completamente. Da ogni settore arriva un drammatico grido di dolore, lo sa bene Sebastiano Fadda, presidente di INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che saluto. Buonasera presidente, grazie. Buonasera a lei. Voi avete fatto diverse ricognizioni in questo periodo, peraltro se non mi ricordo male io adesso ho quella, l'ultima, quella dalla quale voglio partire e che racconta come 2 microimprese su 3 sono in questo momento chiuse e avranno probabilmente difficoltà a riaprire, ma so che avete fatto anche un altro studio su quelli che potranno essere invece i settori che traineranno la cosiddetta fase 2, quando a livello politico avremo le idee chiare su come e quando partirà e che sembianze avrà. Presidente, partiamo però dalla prima indagine, quella che avete diffuso proprio nelle ultime ore. 2 microimprese su 3 sono chiuse, dicevo, avranno difficoltà a riaprire. Ci spiega che tipo di censimento avete condotto e soprattutto so che l'avete fatto anche sulla base dei contratti di lavoro che queste imprese hanno, quindi c'è uno spaccato anche per quello che riguarda i lavoratori. Fadda. Sì, infatti. Allora, il dato drammatico che supera anche quello del numero delle imprese è quello relativo al numero degli occupati che sono occupati nelle imprese sospese e che quindi non stanno lavorando. Gli occupati nelle imprese sospese sono circa 5 milioni, sono 4 milioni 908, e quindi sono il 40% dell'occupazione totale, cioè il 40% degli occupati si trovano temporaneamente sospesi in questo momento. Quindi questo è un dato aggregato di grande importanza, certo, che spinge il Fondo Monetario Internazionale a dire che ci sarà una contrazione del PIL in Italia addirittura pari al 9-10% il prossimo anno, con conseguenze anche sul rapporto debito-PIL. Questo è il dato aggregato. Le imprese, per quanto riguarda la qualifica, diciamo che la quota di dipendenti di imprese rimaste attive è minore, diciamo, per gli operai e gli apprendisti sono il 53,4% rispetto al 59,7% che sono operai e apprendisti coinvolti nelle imprese sospese. E poi ci sono coloro che si trovano in situazione di contratti a tempo determinato. Per questi la situazione è ancora peggiore, perché si prevede che gran parte di questi non verranno rinnovati i contratti. Certo, e poi ora, anche la caccia agli ammortizzatori sociali, poi anche per questi profili è veramente una caccia al tesoro. Il punto, presidente? Però il punto importante è che bisogna affermare che qui non si tratta soltanto di un temporaneo tamponamento delle esigenze di reddito da parte dei lavoratori che si trovano in condizioni, rischiano di cadere in condizioni di povertà, ma si tratta di salvare il sistema produttivo intero, nazionale, che sopporta 2 tipi di rischi. Il primo tipo di rischio è quello che, come conseguenza della contrazione della produzione, perché l'origine in questo caso della crisi sta nella contrazione della produzione, non della domanda, ma come conseguenza della contrazione della produzione si è avuto un calo del fatturato, un'assenza totale del fatturato, e questo ha compromesso i conti delle imprese e parallelamente ha impoverito il pubblico, i lavoratori, per cui si è avuta anche una contrazione della domanda aggregata, ma conseguente alla contrazione della produzione. Presidente, quali sono quelle che avranno difficoltà a riaprire? Perché noi immaginiamo che questa è un'incognita alla quale possiamo provare a dare sicuramente delle risposte, ma brancoliamo un po' tutti nel buio. Il punto è che è tutto legato ovviamente alla ripartenza, ma se tutto sarà condizionato da questa questione del distanziamento, bisognerà vedere anche tutte le imprese che riusciranno a ripartire, in che condizioni riusciranno a farlo. Temete che non possa ritirare sulla serranda? Diciamo sicuramente, così. Sicuramente il rischio maggiore lo corrono le imprese di piccole dimensioni, perché queste hanno una situazione finanziaria che non consente di recuperare tempestivamente le condizioni per ripartire con la produzione. Tuttavia ci sono anche delle complicazioni, perché la chiusura di certe imprese, se considerate sotto il profilo delle interdipendenze strutturali e delle catene di valore, ha comportato degli effetti moltiplicativi della chiusura di attività e imprese connesse, per cui si è inceppata la rete delle interdipendenze strutturali. Questo significa che ci saranno imprese che avranno difficoltà a ripartire, perché si sono prosciugati i canali di domanda, per esempio le forniture verso l'estero nelle catene di valore internazionale si potrebbero essere prosciugate come conseguenza della sostituzione dei fornitori da parte delle imprese tedesche. Ma infatti la grande preoccupazione è stata proprio questa, cioè la perdita di competitività, laddove già fai fatica, se ti viene a mancare in questo momento anche lo sbocco, laddove quelle imprese si erano riuscite ad internazionalizzare. Abbiamo tanto insistito in questi anni per far fare a tutte uno sforzo anche culturale, apritevi, andate fuori, e adesso è il momento magari in cui molte erano partite, qua tutto chiuso e qualcun altro ne approfitta. Io qui distinguerei due cose. Allora, piccole imprese che si svolgono soprattutto nel terziario, non so, turismo, ristorazione, eccetera, lì il problema è di liquidità e quindi con un adeguato sostegno la ripresa è più facile. Ma le imprese che invece producono un output che è a sua volta l'input di altre imprese localizzate magari all'estero, oppure di altre imprese che hanno sbocchi commerciali verso l'estero, e qui il problema è più grosso, perché si devono trovare queste imprese a ricostruire dei canali di sbocco per la loro produzione. Certo. Questo è molto difficile. Quindi le misure da adottare per queste categorie di imprese non sono soltanto legate alla fornitura di liquidità, che pure si trova davanti a quei problemi che si sono sentiti di burocrazia, di tempestività, eccetera, ma dovrebbero essere inquadrate in una strategia selettiva di politica industriale. Esatto, quindi Presidente, no, la interrompo perché è interessante questo punto. Oltre a tutto quello che è stato fatto, decreto liquidità, decreto imprese, andate in banca, vi viene erogato un prestito per sopravvivere, tassi bassi, prestito garanzia, interviene lo Stato e quant'altro, significa lei sta dando una sorta di suggerimento allo Stato, non basta quello, ma mettete anche le imprese nelle condizioni di proteggersi e di rimettersi sul mercato in termini competitivi, non la sentiamo? Certo, se anche tutte queste cose funzionassero, alcune imprese, come conseguenza di un blocco prolungato, potrebbero trovare difficoltà e quindi dovrebbero avere un aiuto supplementare in termini di esportazioni, in termini di facilitazione della ricostituzione dei canali di sbocco, per ricostruire tutto il tessuto produttivo e ricostruire tutte le catene di valore che sono state interrotte, sia quelle delle filiere nazionali sia quelle internazionali. Quindi è necessario che questi interventi superino, diciamo, non aboliscano, ma vadano oltre la distribuzione a pioggia di questi incentivi e si colga l'occasione di adottare delle strategie di politica industriale con adeguati interventi su nodi cruciali del sistema produttivo. Certo. Questo è qualcosa che manca, ma dovrebbe essere messo. Diciamo che esatto, forse anche lo Stato non è in una condizione di serenità tale, ma uno Stato è obbligato a farlo, appunto, a poter mettere sul piatto in questo momento una ricetta di questa dimensione qualitativa. Però Presidente ha certamente ragione, va bene intervenire con fondi, certo non c'è alternativa, dice lei. Presidente Fadda, io la ringrazio molto per essere stato con noi, avremo modo sicuramente di risentirci, peraltro avevo anche delle dichiarazioni riprese a Che Tempo Che Fa ieri sera da parte del presidente, neopresidente designato di Confindustria Bonomi, e poi ci sono anche delle dichiarazioni del ministro dello sviluppo economico Patuanelli, fra le cose interessanti che sulle quali appunto entrambi si sono dichiarati d'accordo, la possibilità di compensare i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, piuttosto che obbligarle ad andare in banca, tante di queste a chiedere adesso un prestito, indebitarsi di nuovo. Ci sono tanti debiti che lo Stato ha nei confronti delle imprese, se si potesse sanare questa situazione, secondo me. Lei che ne pensa, Fadda? Sì, certo, ma queste sono le condizioni necessarie e preliminari, favorire questi circuiti di immissione della liquidità, e questo va fatto. Però molte imprese potrebbero trovarsi davanti non a un problema di liquidità, ma a un problema di sbocco dei mercati, sì, a un problema di interruzione delle interconnessioni strutturali, delle interdipendenze strutturali, per cui bisognerebbe agire in specifiche filiere produttive con specifiche strategie di intervento che vadano dalla aggregazione di imprese all'innovazione tecnologica, al salto di qualità in termini di produttività. Sì. Diciamo che al momento mi pare che da questo punto di vista l'unica cosa che lo Stato abbia fatto è rafforzare questa famosa Golden Power per evitare che molte aziende italiane diventino potenziali prede per altri attori internazionali. Grazie a Sebastiano Fadda, presidente di INAP. Mi devo scusare perché ho un altro approfondimento e poi la puntata, come al solito, me la son mangiata e tardissimo, nella miglior stile di Sebastiano, mando anch'io la pubblicità tardissimo. Focus Economia. E allora continuiamo a raccogliere, li abbiamo chiamati così, non sappiamo veramente definirli diversamente, i gridi di dolore che arrivano da ogni settore, ogni categoria economico-produttiva in questo momento naviga a vista. Centinaia di migliaia di aziende non sanno in che condizioni, quando il nostro paese si rimetterà in moto, non sanno in che condizioni ripartiranno. Sapete cosa sta succedendo nel turismo? È il dramma totale, il crollo è verticale, non si fa più nulla praticamente, non si riesce a pianificare nulla. Voi lo sapete perché noi l'abbiamo raccontato anche in diretta, è stato proprio il primo settore ad avere chiara la dimensione della crisi che stava arrivando, e allora il settore si è però mosso naturalmente, perché non accetta di non avere nessuna prospettiva sulla ripartenza. 50.000 posti di lavoro a rischio già a giugno se non si agisce in fretta, un SOS che lanciano i promotori del manifesto Ripartiamo dall'Italia, un manifesto sottoscritto da oltre 35.000 imprese, cittadini, personalità dell'economia, della cultura, dello sport e dello spettacolo. E questo è il turismo che chiede attenzione più di quella che è stata data. Evidentemente per questo comparto c'è più difficoltà, perché insomma con tutta questa difficoltà, anzi impossibilità nello spostarsi, chi di voi sta pensando alle vacanze di quest'estate? Figuriamoci andare all'estero, ma qua il punto è che non si parla neanche di muoversi in Italia se non si sistemano un pochino le cose. Allora Stefano Dallara, io tendo sempre a banalizzare gli argomenti perché poi il contenuto ce lo danno naturalmente i nostri ospiti, ma è chiaro che stiamo parlando di un settore che sta cercando di riprendersi da un vero e proprio collasso. Stefano Dallara è presidente di Robin to Travel Group, vicepresidente di FTO Confcommercio, la federazione del turismo organizzato. Buonasera Dallara e grazie di essere con noi. Allora, io chiedo a lei di darci tutte le altre cifre della crisi di questo settore, che credo che non sia sbagliato dire che sia quello che in assoluto sta pagando il dazio più pesante al Covid-19. Sì, nel rispetto ovviamente della situazione molto critica che lei ha descritto prima dell'economia del nostro paese, ma in generale europea, per non dire mondiale, certamente il settore turistico, noi in questo caso rappresentiamo la filiera del turismo organizzato, ma lanciando il manifesto abbiamo promosso una campagna pro turismo, quindi lei anche i dati che ha dato erano già drammatici riferiti al turismo organizzato, quindi parliamo dei 50.000 posti di lavoro a rischio, ha evidenziato un punto molto molto delicato. Quindi il turismo, il turismo organizzato è il motore del turismo italiano, ha di fatto già perso a maggio il 70% del suo volume d'affari dell'anno. Perché? Perché il ciclo è questo, servono mesi e mesi per arrivare alle famose prenotazioni che sono state tutte cancellate, comprese quelle per l'estate, e quindi il grido d'allarme che abbiamo lanciato è scaturito dal fatto che, a nostro giudizio, sia nell'opinione pubblica che anche nella politica, non era percepita la situazione drammatica in cui versa il nostro settore. Un settore che, dopo una grande crisi che è sostanzialmente terminata nel 2015, ha avuto degli anni molto positivi, c'era già stata una scrematura di imprese, un rilancio dell'innovazione, e quindi è arrivato nei 3 anni passati ad un livello molto importante, creando un grande volano economico per il paese. Sì, perché poi ricordiamo, Presidente, che voi del turismo organizzato avete dovuto subire in qualche maniera la concorrenza di tutta la riorganizzazione turistica mondiale, con le nuove abitudini anche di consumo del turismo che tutti noi abbiamo adottato in questi anni, le prenotazioni dirette, Airbnb e tutto quello che ne consegue. Quindi già avete dovuto con grande attenzione riorganizzarvi per tutto questo. Dopodiché arriva anche questa crisi che sicuramente, come dire, ne avreste fatte volentieri a meno, ecco. Diciamo che oggi è molto brutto, perché parliamo, di solito quando sono le crisi c'è una responsabilità delle imprese, di un settore, della finanza, come è successo in passato. Questa è un'emergenza sanitaria, una pandemia a livello mondiale, quindi è chiaro che nessuno, né a livello di imprese né a livello di tutti i dipendenti che lavorano in questo settore, vi ricordo che ci sono anche 8.000 agenzie di viaggio in Italia che erano già state scremate, si erano riorganizzate, rilanciate, cresciute come competenza, quindi non sono solo gruppi grandi come i nostri, noi stiamo trainando il settore, ecco, non è che stiamo portando avanti una campagna pro nostri gruppi, che comunque sono tutti gruppi, oltre a Robinson, ma penso a Gattinoni, ad Alpitour, a Uvet, che sono tra i promotori di questo manifesto, sono tutti gruppi che hanno avuto fino al 31/12/2019 un andamento economico molto positivo, creando occupazione e facendo da motore al mondo del turismo. Certo. Presidente, voi dite che i governi degli altri paesi europei hanno già assunto provvedimenti mirati per questo particolare comparto. Quindi mi sta dicendo che in Italia l'attenzione nei vostri confronti non è stata sufficiente, ma a parte questo, ammettendo anche che un sostegno dallo Stato arrivi, voi chiedete qualcosa come almeno 750 milioni di euro a fondo perduto entro giugno per il sostegno al mancato reddito di aziende che hanno perso in un colpo 9 mesi di fatturato annuo. Ma qui il punto è anche come ripartirete, perché noi non abbiamo ben capito quali saranno le nostre nuove abitudini in termini di lavoro, socialità, e quindi il turismo cambierà, dovrà sopportare un ennesimo cambiamento, per cui a prescindere dall'aiuto nell'immediato per tutte le persone che lavorano in questo settore, che naturalmente devono essere trattate esattamente come vengono trattate con gli ammortizzatori sociali tutti i lavoratori negli altri comparti, ma il punto è che visibilità avete voi per il vostro futuro, quindi credo che un'attenzione forse un pochino più specifica debba essere data a questo punto, e credo che voi chiediate questo. Sì, diciamo, noi abbiamo chiesto, siamo concentrati su pochi punti, noi abbiamo ritenuto che, ma questo magari anche per colpa del turismo, perché ha una rappresentanza molto frazionata in generale, se no non sarebbe nato il nostro tavolo, che ha voluto fare da motore non andando sopra le associazioni, lei ha citato il mio ruolo in FTO, ma aiutando le associazioni in questo, perché purtroppo il turismo in Italia è percepito così a livello a carattere generale, magari come l'albergo o la spiaggia. In realtà è un settore molto più complesso e complicato, per arrivare anche agli eventi. Vi ricordo, sono 420.000 eventi in Italia oggi, per la maggioranza cancellati. Gli incentivi aziendali, certo, c'è tutto. Sì, poi c'è tutta la parte business travel, i viaggi da affari, dai tour operator, agenzie di viaggio, la distribuzione. Quindi un settore, parlo del turismo organizzato, che poi fa da motore a tutto il turismo. Noi abbiamo ritenuto che non fosse compresa neanche non fosse neanche compreso il ciclo lungo dell'attività turistica, che non è come aprire, con tutto rispetto per le attività commerciali che sono molto danneggiate, però uno a un certo punto riaprirà la serranda avrà fatto 2 mesi bruttissimi, ne farà altri 2 o 3 probabilmente brutti, sarà un anno brutto, ma si cercherà di recuperare. Al turismo non basterà aprire la serranda, perché per farle un esempio già si parla di mesi di difficoltà nel riaprire l'estate, dopo parlerò, e però servono ad esempio, cito il caso delle gite scolastiche, servono 7-8 mesi di preparazione, cioè lanciare anche un catalogo e tutto, quindi è complicato. Noi stiamo cercando di dire, vogliamo difendere l'occupazione, per difendere l'occupazione riteniamo che alla fine dell'anno il turismo avrà perso tra l'80 e l'85% dei propri ricavi nel 2020, quindi non producendo reddito abbiamo bisogno in primis di un sostegno al reddito, poi chiamiamolo come lo vogliamo, fondo perduto, ristoro sulle attività. Oggi è partito un dibattito, noi questo lo apprezziamo, però lei ha citato gli altri paesi, io le dico che tra Belgio, Danimarca, Francia, Regno Unito, Germania e addirittura il Portogallo sono stati fatti degli interventi molto importanti a sostegno delle imprese e soprattutto anche a sostegno delle imprese turistiche, ma concreti, quindi parliamo di soldi bonificati. Ma i famosi voucher da 300 o 400 euro a famiglia per fare le vacanze in Italia, adesso io non mi ricordo se fosse così banale questo intervento del quale si è parlato, comunque questa sorta appunto di contributo alle famiglie che decidono di mantenere ovviamente la disponibilità a fare una vacanza in Italia, potrebbe essere un aiuto piccolo, modesto ma utile? Allora noi sul buono, questo è il cosiddetto buono vacanze, questa domanda ringrazio perché così posso dare una risposta chiara su qual è la nostra posizione. Noi non ci siamo schierati contro, anzi è una cosa che ci fa piacere se verrà erogata, ma questa è una misura che va soprattutto a toccare, va a beneficio giustamente del cittadino italiano, del consumatore, per cui è un contributo. È un po' proposto sulla falsariga del modello francese che ha avuto un buon successo ma è partito in un momento di economia normale perché ha ridotto un po' il gap, no, tra le varie classi di reddito. Quindi le classi meno abbienti hanno avuto un contributo. In questo caso qua, per il 2020, noi la vediamo con favore ma è una misura collaterale per noi perché certamente toccherà l'immaginario dei cittadini e ovviamente la politica deve pensare al cittadino che è il consumatore finale. Ma in termini assoluti nel 2020 lei tenga conto che il turismo, penso in questo caso alle strutture ricettive, alle spiagge, agli alberghi, ai villaggi, stanno facendo uno sforzo incredibile per pensare di aprire probabilmente dai primi di luglio in una stagione che è per gran parte compromessa, perché le stesse città in apertura ad oggi. Penso anche agli interventi che ho ascoltato ieri in televisione di emeriti, voglio dire, rappresentanti del mondo sanitario italiano, che dicevano aspettate ancora a parlare di vacanze. Quindi con questo mood si arriva che probabilmente speriamo di poter mandare in vacanza della gente in agosto e addirittura anche in settembre, anche se il mondo dell'impresa sarà aperto, perché tutte le aziende probabilmente apriranno. E ce lo auguriamo anche onestamente. Certo. Per recuperare dei gap, la gente avrà meno ferie perché in cassa integrazione ha consumato prima le ferie, avrà meno soldi. Noi stiamo cercando, come mondo del turismo organizzato e mondo del turismo in generale, di compiere uno sforzo disumano per dare ai consumatori e ai cittadini italiani la possibilità di andare in ferie in situazioni di tranquillità, fidandosi, dicendo noi ti garantiamo che se vai in quel villaggio, in quella struttura, usufruirai del rispetto delle norme sanitarie che saranno in vigore certo. A quel momento. Dall'ara, aspetti lì, devo dare il traffico perché è tardissimo, altrimenti la regia mi mette il cartellino rosso. Le voglio fare un'ultima domanda prima di salutarla, un attimino solo di pazienza. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodallitalia.it. Focus Economia. Ecco, neanche a dirlo, avevamo anche la promozione in corso a Radio 24, non lo sapevo, generalmente siamo anche un po' più eleganti, quantomeno non emettiamo a ridosso degli ospiti, però dall'Ara, come vede, anche noi vi appoggiamo in questa battaglia. Mi incuriosiva un aspetto adesso che è a metà tra il folcloristico, ci abbiamo riso tanto ma c'è ben poco da ridere, il tema della messa in sicurezza dei turisti che viaggeranno, delle persone che si sposteranno e verranno in viaggio. Mi hanno raccontato alcune persone vicine al suo staff che ci hanno riso in molti dietro per la questione delle scatole di plexiglass che dovrebbero contenere le famiglie che vanno in spiaggia, questi dispositivi di sicurezza che non so se veramente qualcuno li ha messi allo studio o meno, ma insomma, quando voi parlate anche di fare un investimento in questo, come intendete lavorare appunto in questo senso? Allora, come ho già avuto modo di dire, visto che in questo periodo siamo molto, per fortunatamente in questi ultimi 15 giorni, molto gettonati su questa cosa, da trasmissioni come la sua, televisione e radio, e vi ringraziamo di questo perché è un supporto importante, do la stessa risposta. Diciamo che in questo caso l'estrosità dell'italiano non ha prodotto proprio la miglior performance, nel senso che parlare di ingabbiare la gente in gas di plexiglass nelle spiagge non è stato proprio il massimo della vita. Quindi pensiamo invece, con una risposta professionale e di confronto con le autorità sanitarie, scaturiranno certamente dei rimedi e delle possibilità che renderanno i consumatori più tranquilli e saranno un po' più accattivanti. Questo per quello che riguarda la domanda sui plexiglass. Mi permetto di prendere 10 secondi per dire che, visto che è passata la promo sul manifesto, che abbiamo già superato le 40.000 firme, siamo molto contenti perché stanno aderendo anche tante persone a livello trasversale, e quindi questo ci fa molto piacere. Ringraziamo tutti quelli che hanno aderito e che aderiranno al manifesto per il turismo. Se può interessare, ho firmato anche io, Presidente. Nessuno mi ha regalato un viaggio, come magari potranno pensare in molti maliziosi, insomma, visto che pensano sempre che noi giornalisti abbiamo chissà quali tipi di privilegi, ma in tempi non sospetti, non appena l'ho conosciuto, io la mia adesione ve l'ho data. Grazie Presidente Dall'Ara per essere stato con noi. Stefano Dall'Ara, Vicepresidente di FTO Confcommercio, Federazione del Turismo Organizzato. Devo salutarla brutalmente perché pochi minuti di tempo prima della chiusura di questo blocco, ma ci bastano per raccontare la giornata di borsa. E quindi dovrà essere veramente super smart Enrico Miele, collega di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Enrico, buonasera, grazie. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, vado a dare subito la chiusura di Milano, che ha un piccolo scatto d'orgoglio sul finale, termina con un più 0,05%. Positive anche le altre piazze europee, abbiamo un rialzo di mezzo punto a Parigi, a Francoforte, Londra pure più 0,45%. Si temeva veramente che oggi potesse essere una giornata molto storta per la questione del petrolio, invece alla fine l'Europa appunto ce l'ha fatta. Raccontaci in 2 minuti e mezzo questa giornata, Enrico. Sì, esatto, le borse europee alla fine hanno chiuso la seduta all'insegna della volatilità, poco mosse, ma quello che si definisce nel gergo del market mover oggi è stato il crash storico ed epocale del petrolio. Cosa è successo? Il WTI è collassato di oltre il 40% ed è sceso fino a $10 al barile. Ecco, per dare la misura agli ascoltatori, siamo su valori minimi dal secondo dopoguerra. Quindi questo è una spia di che cosa? Di quanto la pandemia del coronavirus, che ha portato al lockdown l'economia della maggior parte del mondo, stia impattando poi sull'economia reale, in particolare la domanda di greggio che è crollata e quindi ponendo un problema sulla produzione e inevitabilmente anche sul valore degli scambi. C'è anche un grande fondo che è intervenuto, un ETF, lo spiegavamo anche all'inizio, che i cui movimenti appunto da un future a un altro ha determinato delle vendite forzate su quello più liquido, che è quello in scadenza maggio. Però facciamo talmente fatica a spiegare anche questa dinamica, ma anche questo è stato un po', come si suol dire, il carico di briscola su questa giornata che era già partita malissimo. Enrico, i temi di Piazza Affari? Allora, a Piazza Affari sicuramente hanno sofferto i titoli petroliferi, che ovviamente sono legati sia rispetto al mercato ma sia rispetto anche ai conti interni su quelli che sono i future del petrolio, quindi con un impatto diretto. Uno dei titoli che più ha sofferto in attesa dei dati del primo trimestre, i risultati di bilancio, è stato Eni. Tra gli altri titoli da segnalare ha sofferto Campari, anche se è stato il giorno dello stacco della cedola. Campari che alla fine della scorsa settimana ha annunciato un'intesa ormai imminente per acquistare un importante maison, esatto, dello champagne francese, che quindi segna l'entrata del gruppo italiano anche nei prodotti di altissima gamma del mercato mondiale del bevere, a partire appunto dagli champagne francesi. Sì, tra l'altro in altri momenti magari questa notizia avrebbe guadagnato anche delle gran belle pagine sui giornali, e questo però non è periodo invece per valorizzare anche queste piccole queste notizie, insomma, di conquiste francesi. Anche Ferrari oggi ha staccato il dividendo, che non è l'altro champagne, ma in questo caso è il cavallino rampante, Enrico. Esatto, ha staccato il dividendo, anche se poi recentemente anche i vertici di Maranello hanno ribadito come, nonostante la situazione di panico dei mercati mondiali, però gli ordinativi rispetto al 2020 siano in realtà positivi, quindi insomma c'è ottimismo anche sulla chiusura dell'anno. Enrico, finale... devo andare al giornale radio, puoi tornare con noi fra 5 minuti per raccontarci altri 2 o 3 casi? Certo. A tra poco. Focus Economia. Eccoci ritrovati, ancora buonasera a tutti da Deborah Rosciani. Allora, anche stasera seguiremo, come fa Sebastiano tutte le sere, la conferenza stampa della Protezione Civile, che ci darà il punto della situazione. Come sapete, dalla settimana scorsa è stata presa la decisione di fare la conferenza stampa 2 volte a settimana. Una di queste 2 volte è il lunedì, e quindi la seguiremo con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, e poi vedremo quale medico affiancherà appunto il capo della Protezione Civile nella divulgazione dei dati odierni. Eravamo però rimasti con Enrico Miele, collega di Radio Cori Il Sole 24 Ore, sul resoconto della giornata di borsa. Enrico, aiutami ad andare verso la conferenza stampa della Protezione Civile. Allora, eravamo rimasti, avevamo dato conto dei peggiori titoli di questa giornata. I migliori: Amplifon più 10,80%, Diasorin ancora una volta più 6,23%, Atlantia più 3,77%. Ci sono delle ragioni dietro a questi rialzi per questi tre gruppi? Allora, in particolare Atlantia si conferma in quelle che sono state le indiscrezioni, tra l'altro anticipate al Sole 24 Ore la settimana scorsa, su degli spiragli di trattativa tra il governo e la holding dei Benetton, che ricordiamo agli ascoltatori è concessionaria delle autostrade per l'Italia. La chiusura di questa trattativa con il governo, oltre a determinare il destino di Aspi, è decisiva anche per la chiusura del bilancio 2019 della holding Atlantia, che ha in pancia le autostrade, quindi in realtà per Benetton è un passaggio decisivo, insomma uno snodo anche politico importante. Altro titolo che si è mosso oggi è stato, anche se all'insegna della debolezza, è stato quello di Telecom, e qui c'è una notizia curiosa, cioè nel fine settimana il Sole 24 Ore ha riferito che un gruppo di manager azionisti con una lettera ha invitato l'azienda a fare retromarcia rispetto all'ipotesi della distribuzione della cedola, tra l'altro vista la situazione di difficoltà legata al Covid. Tra l'altro Telecom, dopo tanti anni, aveva deciso di ritornare alla cedola appunto per dare al mercato un segnale di ritrovata normalità, però ovviamente, come sottolineava il Sole anche oggi, di normale in questo periodo non c'è più nulla, e quindi anche un epocale ritorno al dividendo rischia di finire in freezer in attesa di capire come si svilupperà il lockdown nel nostro paese. Sì, è proprio dell'incredibile la storia di Telecom, non c'è verso di poter tornare a remunerare gli azionisti, insomma, ma in questo periodo, come sappiamo, hanno cominciato le banche, dopo l'invito rivolto agli istituti di credito europei da parte della Banca Centrale Europea di sospendere l'erogazione del dividendo, e in modo tale da tenere un po' più di liquidità in pancia e sostenere le aziende, ma in realtà poi negli ultimi giorni molti hanno assunto la medesima decisione. Non così sta avvenendo nelle altre parti del mondo. A me ha colpito molto il fatto che, per esempio, negli Stati Uniti la Federal Reserve, la banca centrale americana, alle banche abbia detto: non c'è alcun bisogno che sospendiate il dividendo, continuate pure a remunerare appunto i vostri azionisti. E quindi insomma c'è anche un po' questa, mi verrebbe da dire, concorrenza sleale per quello che riguarda il mondo degli investimenti, ma insomma sono commenti en passant, come si direbbe. Enrico, grazie per essere stato con noi e buona serata. Grazie a te. Allora, intanto non inizia ancora la conferenza stampa della Protezione Civile, la seguiremo in diretta, non appena la vedremo, appunto vedremo le prime immagini. Intanto abbiamo delle notizie che arrivano da New York. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 478 morti a causa appunto del Covid-19 nell'intero stato di New York. La notizia è stata data, come fa ogni giorno, dal governatore Andrew Cuomo, appunto nella consueta conferenza stampa giornaliere. Quindi il totale dei decessi, visto che qua, per chi ha il piacere in questo momento di guardarci da Facebook, abbiamo la lenzuolata delle statistiche delle ultime giornate, manteniamo attenzione anche su quello che succede nelle altre parti del mondo. Il totale dei decessi legati alla malattia sale a 14.347, stato di New York, ribadisco, ieri i morti erano stati 507. Cuomo ha anche notato che il numero di ricoveri e di persone intubate, quindi terapia intensiva, sta continuando a scendere, quindi buone notizie anche dagli Stati Uniti. In precedenza il sindaco della città di New York, Bill de Blasio, aveva annunciato che tutti gli eventi previsti in città nel mese di giugno sono stati cancellati. E beh, vorrei vedere. La scorsa settimana poi aveva comunicato la cancellazione di concerti, fiere, eventi podistici e parate in programma a maggio. E insomma, qua tutto il mondo è paese, come si dice in questi casi. Allora, intanto che la conferenza stampa non inizia, andiamo al prossimo argomento che volevamo approfondire oggi. Allora, in tanti state commentando questa notizia, soprattutto lo stanno facendo le persone che questa mattina una capatina in banca hanno provato a farla, anche se in realtà, come sapete, adesso c'è la disposizione di prendere l'appuntamento telefonico. Non recatevi in banca inutilmente, perché intasiamo gli sportelli, state lì in fila per gli sportelli che continuano ancora, per gli uffici, per appunto le filiali che continuano ancora ad essere aperte regolarmente, anche se a ranghi ridotti, perché come sapete anche questo settore ha riorganizzato completamente la sua operatività con molto smart working, ma è inutile presentarsi lì se c'è poi da fare la fila. E ieri anche il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, ha ribadito: non andateci fisicamente, prendete un appuntamento e fate poi la conversazione con il funzionario che vi viene assegnato con serenità. Che cosa è successo oggi? È partita la maxi operazione liquidità messa in campo dal governo per dare ossigeno alle imprese appunto bloccate dall'emergenza coronavirus. Le banche assicurano che i soldi potranno arrivare nelle casse degli imprenditori praticamente subito, anche nel giro di una giornata. Nell'immediato, come sapete, si possono chiedere ed eventualmente ottenere, se si hanno i requisiti, gli importi sotto i 25.000 euro garantiti al 100% dal fondo piccole e medie imprese, garantito appunto dal fondo di garanzia. Allora, buonasera, grazie per essere con noi, a Gianfranco Torriero, vice direttore dell'ABI. Buonasera. Buonasera, grazie. Oggi tutti i dirigenti, funzionari, manager dell'ABI sono veramente strattonati da tutti i giornalisti che vorrebbero avere un po' un punto della situazione. Com'è andata questa giornata, Torriero? Avete una ricognizione a fine giornata, alle ore 18:15? Sappiamo insomma quante richieste, quanti piccoli imprenditori si sono presentati alle filiali? Sì, questa informazione di dettaglio non la possiamo avere. Non l'abbiamo, siamo in contatto con il Medio Credito Centrale, che sicuramente avrà indicazioni su quante domande sono state inserite. Quello che abbiamo, che possiamo dire, c'è stata appunto una banca che in questo momento ha annunciato che in poche ore ha avuto più di un migliaio di domande, e abbiamo potuto vedere, lavorando proprio anche nel fine settimana a stretto contatto con le banche, come molti siti internet e banche siano pronti proprio per poter ricevere online le richieste, dove in ogni sito delle banche, le banche sono sempre riferimento. Torriero, la sentiamo male, si può mettere magari un pochino più distanziato dalla cornetta, forse? Sì. Ecco, così almeno la è un pochino più pulita. Adesso meglio, grazie. C'è la possibilità di poter avere all'interno dei siti internet delle banche la sezione dedicata al Covid-19, con tutte le misure che sono state messe in campo in questo periodo, tra cui anche questa importante della possibilità di avere un finanziamento fino a 25.000 euro. Torriero, mi deve aspettare là. Se ha pazienza, le chiedo questa gentilezza, tanto le avevo chiesto la disponibilità fino alle 18:30. Inizia la conferenza stampa di Angelo Borrelli. Andiamo in diretta. 181.228, con un incremento rispetto a ieri di 2.256 persone. Ad oggi il totale delle persone positive è di 108.237, con una diminuzione, un decremento di 20 persone rispetto a ieri. Questo è per la prima volta un dato ulteriormente positivo, perché andiamo a diminuire il numero delle persone attualmente positive. Prosegue anche il calo della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi sono infatti 2.537 i pazienti in terapia intensiva, con una diminuzione di 62 rispetto a ieri. È il numero più basso che noi abbiamo registrato in terapia intensiva da un mese a questa parte. 24.906 sono le persone ricoverate con sintomi, con una diminuzione di 127 persone rispetto a ieri. La maggior parte dei positivi sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, sono 80.758 e sono il 75% del totale. Oggi registriamo 454 nuovi deceduti, mentre il totale dei guariti sale a 48.877, 1.822 in più rispetto a ieri. Quasi il 90% dei dimessi guariti totali sono stati registrati nell'ultimo mese, dallo scorso 20 marzo. Per quanto riguarda le forze in campo, registriamo sempre un numero elevato di volontari, 19.398 sono i nostri volontari che sono impiegati sia da parte delle organizzazioni nazionali che delle organizzazioni territoriali di volontariato, e li voglio ringraziare insieme a tutti coloro i quali sono impegnati per combattere e contrastare questa pandemia, quindi il personale delle strutture operative, delle forze armate, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e il personale sanitario, oltre che il personale delle regioni. Per quanto riguarda le somme raccolte sul conto corrente del Dipartimento destinato alle donazioni, ad oggi abbiamo raccolto 128.338.017 euro e ne abbiamo spesi 46 milioni per acquisto di dispositivi di protezione individuale per ventilatori. Voglio anche dire che sono online due bandi, uno per reclutare un nuovo contingente di medici che andranno a integrare la task force già inviata sul territorio, e un altro per 1.500 operatori sociosanitari che sono destinati in parte alle residenze sanitarie assistenziali, alle residenze sanitarie per disabili, alle case di riposo, e in parte sono destinati agli istituti penitenziari. E su questi bandi lasciamo Borrelli. Avete sentito le cifre di oggi, Maria Sole Lisciandro si è subito affrettata a calcolarci le percentuali di crescita rispetto a ieri. Adesso ve ne diamo conto, ci prendiamo un minutino di pausa per appunto da dare alla regia. Chiedo scusa a Gianfranco Torriero che rimane con noi. Adesso esamineremo un po' meglio questa prima giornata di test per il sistema bancario e per le imprese pronte a chiedere questi finanziamenti appunto erogati con la garanzia dello Stato. A tra pochissimo. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939. Oppure visita il sito azienda.eolo.it. Focus Economia. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, vediamo se mi oriento in questi numeri, non sono abituata a darne, ma il punto è che c'è questo meno 0,01% di variazione percentuale, quindi per la prima volta negativa, sul numero dei positivi totali, che sono praticamente il numero dei positivi è in calo appunto dello 0,01% e sono 108.237, meno 20 sulla rilevazione del giorno prima. I deceduti 454, una crescita rispetto al giorno precedente dell'1,9%. I guariti, c'è una crescita di 1.822 unità, c'è una crescita percentuale del 3,8%. Questi sono appunto gli indicatori più importanti. I casi totali che sommano i positivi, i deceduti e i guariti sono 181.228, con una crescita sul giorno precedente di 2.256 unità, più 1,3%. E poi avete sentito, anche questa è una notizia fra le migliori, naturalmente sta continuando a scendere la pressione sulle terapie intensive. Abbiamo avuto da ieri ad oggi un'ulteriore riduzione di 62 unità, siamo a 2.537 terapie intensive appunto attualmente ancora attive, operative, non saprei come altro dirlo. Allora, che sudata anche oggi, ragazzi. Gianfranco Torriero, torno a lei. Tutte le sere appunto abbiamo dato l'abitudine ai nostri ascoltatori di ascoltare anche in radio il punto quotidiano della Protezione Civile, anche se appunto, come sapete, da questa settimana l'appuntamento sarà solo per due volte, ma c'era anche stasera. Torniamo invece all'altro grande pronto soccorso di questi giorni, che è stato un po' quello bancario, perché poi noi ci piace sempre dire quando non siete particolarmente efficienti o quando magari non accontentate il cliente che viene da voi e ha bisogno, ma c'è da dire che lo sforzo che è stato messo in campo in questo periodo è stato assolutamente eccezionale. Sì. Torriero, allora rifacciamo un punto della situazione sulla partenza oggi della grande maxi operazione liquidità. Dicevamo solamente una banca, al momento ha dato più o meno il bilancio di questa prima giornata, ma il punto è che già qualche ascoltatore ci dice: io sono andato, però questa banca mi ha chiesto un fido contestuale, mi ha chiesto una condizione, eccetera. Portare a casa un'operazione semplicissima credo che sia abbastanza difficile, perché comunque ogni azienda un minimo di istruttoria con la banca la deve fare, bisogna guardare la situazione nel complesso, no? Secondo voi quante aziende si potranno accontentare pronti via? 25.000 euro chiesti stamattina e domattina già sul conto dell'azienda. Allora, è bene ricordare qual è il processo, perché il primo aspetto è che l'azienda deve compilare un modulo che è messo a disposizione dal fondo di garanzia PMI, il cosiddetto modulo 4 bis, che deve compilarlo a sua cura, perché è un atto importante in quanto è una autodichiarazione. È un'autodichiarazione, quindi deve inserire tutti gli elementi che gli vengono richiesti, appunto dall'ammontare del ricavo annuo della sua azienda, che non ha avuto delle sentenze penali. Ci sono tutta una serie di elementi molto importanti che deve compilare, che non ha ricevuto altri finanziamenti o comunque se li ha ricevuti li deve dettagliare, in modo tale che una volta che l'azienda ha compilato e ha trasmesso alla banca questo modulo, la banca può a questo punto interrogare il sito e la piattaforma del fondo di garanzia, inserire i dati. Se questa piattaforma fa andare avanti la banca nella emissione dei dati e quindi dà l'ok per la presa in carico della pratica, a questo punto la banca deve fare solamente un ulteriore controllo, che è quello che il cliente è un buon pagatore, cioè che come previsto dalla normativa non aveva partite deteriorate prima del 31 gennaio 2020, e a questo punto può effettivamente effettuare l'erogazione. Quindi obiettivamente è una pratica molto semplice, perché la banca deve fare essenzialmente una verifica dei requisiti formali, quindi che la domanda sia stata completata correttamente, non entra nel merito del contenuto, perché la responsabilità è dell'impresa. Poi sarà eventualmente il medio credito a fare le verifiche a campione sulle dichiarazioni, ma la banca non deve neanche aspettare l'autorizzazione del medio credito e quindi del fondo di garanzia per quanto riguarda l'accettazione della garanzia, deve solamente ricevere l'ok a che l'immissione del modulo di richiesta della garanzia sia corretta, e quindi a questo punto associerà il modulo della richiesta di finanziamento della banca e quindi potrà poi effettuare l'accredito sul conto del cliente impresa alla banca. Quindi effettivamente questa è una procedura estremamente semplificata, proprio per creare quelle condizioni di poter dare un respiro immediato e tempestivo al mondo delle piccole e medie imprese. Ecco, lei ci diceva appunto, lo ribadisco, non è in grado ancora tutto il sistema di poterci dire quante imprese questa mattina sono state capaci di rilasciare questa autocertificazione e quindi di attivare questa procedura molto semplificata, perché è anche abbastanza ragionevole pensare che tutti non abbiano una situazione semplicissima da poter mettere nera su bianco. C'era poi anche l'aspetto, dottor Torriero, del rapporto rispetto ai ricavi che l'azienda ha avuto lo scorso anno, perché forse questo passaggio non è stato subito chiaro a molte aziende che immaginavano di poter andare in banca e chiedere to cure 25.000 euro e forse non era stato subito chiaro il passaggio del rapporto percentuale con i ricavi generati nel 2019, giusto? Certo, infatti i passaggi per ricordare anche bisogna dar tempo anche alle imprese di riempire questo modulo, perché il provvedimento è della notte dell'8 di aprile. Poi si è dovuto attendere l'ok della Commissione europea, che è arrivata il martedì successivo, l'apertura della piattaforma da parte del Medio Credito Centrale del Fondo di Garanzia è avvenuto venerdì scorso, con anche la relativa disponibilità del modulo. Nel modulo è ben spiegato come il valore dei 25.000 è un valore massimo, cioè è attribuibile a coloro che hanno dei ricavi pari a 100.000 o per valori superiori. Se per esempio un'azienda avesse un ricavo annuo di 80.000, non prenderà 25.000, ma potrà richiedere un finanziamento garantito per 20.000, che è il 25% di 80.000. Quindi certo, è una cosa molto importante, perché forse nella comunicazione sembrava come se questa cifra fosse una cifra fissa, mentre è, esatto, proporzionale. Coerentemente anche con gli obiettivi che si vogliono raggiungere alla dimensione del fatturato dell'impresa. Quindi 100.000 o in più si avranno 25.000, per valori inferiori sarà il 25% del fatturato. Quindi per 80.000 di fatturato sarà massimo garantibile un finanziamento di 20.000. Un ascoltatore chiede: esiste un minimo erogabile? Ribadiamo, dipende dall'entità dei ricavi che l'azienda ha avuto lo scorso anno, il 25% dei ricavi dello scorso anno. Un ultimo aspetto, dottor Torriero, poi in realtà anche stasera la trasmissione è terminata. Quando si dice garanzia dello Stato, esattamente questa garanzia quando è che interviene? Nel caso in cui, quando ripartirà poi la restituzione del prestito, un'azienda non dovesse riuscire ad onorare una rata, una parte del finanziamento, quando è esattamente che interviene, a parte il fatto che adesso è una sorta di raccomandazione per l'azienda? Sostanzialmente il prestito ha durato per 6 anni, dove per i primi 2 anni non è previsto nessun rimborso, quindi il rimborso inizia solamente dopo 24 mesi. Nel caso in cui i rimborsi non dovessero avvenire, ovviamente a quel punto la banca può escludere la garanzia, può richiedere l'utilizzo della garanzia, si può rivolgere al Fondo Centrale di Garanzia per ottenere le somme che non sono state pagate dall'impresa. Però ecco, è importante che appunto ci sia una presa in carico importante da parte del mondo delle imprese, perché le garanzie sono garanzie pubbliche, quindi sono garanzie che sono fornite e da risorse pubbliche che sono di tutti i cittadini italiani. Questo è anche il motivo per cui le banche devono almeno andare a verificare che il soggetto non era già in una posizione di difficoltà per quanto riguarda il rapporto con le banche prima del 31 gennaio 2020. Chiarissimo, grazie Gianfranco Torriero, vice direttore di ABI, per essere stato con noi anche questa sera a Focus Economia. Termina qui, grazie a Maria Sole Di Sciandro, a Barbara Bianchi in remoto questa sera in assistenza, ma l'abbiamo portata a casa anche oggi. A tutti una buona serata.